Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Lasciatelo stare! Non si mettono le mani addosso ai bambini! Leonardo! No, li governo! Leonardo! Ma ferma cosa? E della questura non si trattano così i bambini! È un medico! Andate in televisione, andate, bastardi! Leonardo! Lasciali stare! I bambini non si portano via! Silva! Aveva ragione la zia di Leonardo, che urlava mentre girava il video con il telefonino. Questo video è andato in televisione, ci è andato talmente tanto che solo su YouTube ha avuto 1 milione di click, lo dice questa mattina un pezzo di Cristiano Gatti sul Giornale. L'Italia piagnona, mammona, strappacore, piezzecore, di mamma ce n'è una sola, ha avuto la sua vittoria. Abbiamo avuto un fine di settimana molto intenso in cui l'Italia si è lacerata, si è distrutta, si è massacrata su questo video impressionante, in sé molto brutto, inutile secondo me da essere trasmesso, perché è un momento di sofferenza di un bambino, era un momento molto brutto. La storia ormai la sapete, i genitori di Leonardo, il bambino in questione, si sono separati nel 2005, lui ha 10 anni, per l'affidamento del figlio scoppia naturalmente, come spesso accade, una battaglia legale. I figli diventano il terreno di scontro dei genitori quando si separano, perché hanno tanto tempo per farsi del male, passano anni, perché in questo paese non ci si può separare, dirsi ciao e salutarsi, ognuno prende la sua vita con dei patti chiari. No, il matrimonio è una cosa sacra, il matrimonio ci vuole tempi di elaborazione, si fa di tutto perché le persone ci ripensino quando non c'è più niente da pensare. Comunque, lo scorso luglio la sezione civile dei minori della Corte d'Appello di Venezia stabilisce che l'affidamento vada dato al padre. Una sentenza singolare, molto raro, di solito i figli vanno alle madri. Mercoledì passato Leonardo viene prelevato dalla polizia, che aveva già tentato 2 volte di prelevarlo per dare esecuzione alla sentenza del giudice. Viene prelevato assieme al padre a forza dalla scuola di Leonardo, e perché fosse affidato a una casa famiglia. La zia, questa signora che strilla, riprende il video va a chi l'ha visto lo manda in onda e si apre una polemica fatta di che? Fatta di grandi salottini mediatici in cui tutti hanno avuto il loro spazio, tutti hanno preso le loro parti, in cui i genitori hanno avuto modo di creare 2 partiti, il partito della mamma e il partito del papà. In questo momento il bambino sta bene, è sereno. Ecco, io ieri ho pranzato e cenato con lui, l'ho messo a letto, ho salvato mio figlio. Inevitabilmente i momenti difficili sono pesantissimi e io per primo ne avverto la pesantezza, però con la consapevolezza di fare il bene di mio figlio. Mio figlio sta pagando per una cosa di cui lui non ha colpa, perché io sono accusata solo di pass e lui, io e lui siamo accusati di pass, di avere questo forte legame che va tagliato, resettando il bambino, mettendolo in un istituto per 1 anno e poi dandolo definitivamente al padre. La madre insiste, la perizia in base alla quale le è stato tolto il figlio indica una sindrome non riconosciuta in Italia, ma lo psichiatra... La sindrome è una sindrome che in Italia non è riconosciuta, che dice che in realtà l'aspetto possessivo ed esclusivo di un genitore può essere dannoso in caso di separazione per l'equilibrio del figlio. Ma queste sono fattispecie che riguardano questo caso. Mi sembra che è stato detto talmente tanto in questi giorni, sono fatte tante parole. La vicenda della situazione in sé passa in secondo piano rispetto a un problema generale che io porrei su 2 piani, se fosse possibile. Questa mattina anche Susanna Tamaro ha fatto il suo lenzuolone sul Corriere della Sera, la crudeltà del possesso che ha sostituito l'amore per Leonardo. Io penso che il discorso dell'amore, dell'affetto, del legame di sangue non siano termini razionalmente definibili. Quello che sia razionalmente definibile, secondo me, è quello che vorrei fare questa mattina, invitando le persone a chiamare all'800240024, evitando di dire quello che già si è detto in questi tre mielosi giorni di talk show televisivo sul bambino rapito, è su due punti. Primo, è lecito, visto che siamo nell'era digitale, in cui ognuno praticamente è terminale di un network individuale, e laddove si capisce, si intuisce, si sa quali sono le maglie deboli del grande sistema della comunicazione, è facile mettere un video fatto con un telefonino e farlo andare in televisione. Funziona, è perfetto quando questo video è segnalatore di un abuso, e va benissimo tutte le volte che noi abbiamo visto poliziotti che picchiavano persone per strada, che compivano abusi, ma in questo caso il protagonista è un minore. Questo ragazzo avrà comunque per tutta la vita il segno che sarà il ragazzo rapito di Cittadella. Cittadella sarà il paese in cui si rapiscono i bambini, in cui i bambini già guardano la televisione e dicono ai genitori: mamma, papà, verranno anche a me a rapirmi i cattivi poliziotti. Non voglio entrare in merito a quanto siano stati buoni, cattivi, costretti, abbiano eseguito bene a regola di normativa e di sensibilità la loro operazione di prelievo con i poliziotti. Voglio solo riflettere sul fatto che comunque oggi un minore è stato volontariamente messo di fronte a un milione di persone soltanto su YouTube e non so quanti in televisione, alla berlina, in un momento di grande sofferenza, perché il bambino si dibatteva, a ragione o torto, era un bambino di 10 anni, in quel momento sentiva di subire qualcosa di molto violento e si ribellava. Secondo punto, tutti entrano nella vicenda strappalacrime. Se il giudizio salomonico deve affidare il bambino alla mamma o al papà, ma nessuno si chiede cosa ci sia a monte. Perché nel nostro paese sia così frequente, e vedo già dai messaggi che mi stanno arrivando, accavallando, come mai nel nostro paese è così frequente che i bambini diventino terreno di scontro dei dissidi dei genitori che si separano? Perché l'odio viscerale, a volte anche comprensibile, non voglio dire che sia male odiarsi quando una persona ci ha fatto del male, ha giocato sui nostri sentimenti, ci ha tradito, sono fatti degli adulti. Ma perché esiste nel nostro paese in particolare la maniera per cui i figli diventano sempre l'esito, il terreno di scontro di queste battaglie? Corrado, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ascolti, io volevo soltanto intervenire indipendentemente dall'impostazione che lei ha dato, perché come cittadino italiano sono indignato dal fatto che in un tribunale italiano, quindi con i soldi miei, delle mie tasse, sia possibile scrivere sentenze basate sulla PAS. La PAS, come ha detto lei, non è riconosciuta come una patologia, quindi è come se un perito in un incidente stradale scrivesse che l'auto è danneggiata al frullatore, dimostrando quindi palese incompetenza. Dopodiché le dico onestamente che la mia storia personale è quella di un fratello, di fratelli, al tempo erano minorenni, di 12-14 anni, in cui il genitore più forte economicamente, che era mio padre, ha fatto di tutto per far scrivere perizie svalutanti, ci è riuscito. Solo le minacce dirette agli operatori di finire in televisione e sui giornali hanno fatto sì che il giudice non ne tenesse conto, perché c'erano dei fatti molto gravi dimostrati. Però Corrado, mi scusi, non voglio interromperla. Lei è entrato in merito alla sentenza, cosa che volevo evitare, ma non perché non sono attrezzato, bisognerebbe vedere le carte, capire le fattispecie e via dicendo. Comunque mi sta bene, esprima il suo giudizio, ma vede che però a monte c'è qualcosa che non va. Il fatto che noi stiamo parlando di questo, il fatto che comunque esista un lancinante terreno di scontro, fatto anche, se vogliamo, di capacità e furbizia di usare bene i media, di usare bene le sentenze e di avere possibilità di avere perizie, è qualcosa che è oltre il problema che voglio toccare io questa mattina. Tutto questo accade perché non c'è una chiara definizione, una laica disposizione che le persone, quando finisce la storia, possono tranquillamente lasciarsi. No, ci deve essere un lunghissimo strascico. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Ti ho fatto ascoltare un attimo le prime reazioni dei nostri ascoltatori, ma questa mattina sei tu che devi darci, secondo la tua esperienza, la tua casistica, il punto rispetto alla riflessione. Gassani, ricordo che è presidente dell'Associazione Nazionale degli Avvocati Matrimonialisti, con lui abbiamo più volte toccato questo tema. Come vedi innanzitutto te, non tanto la vicenda in sé, perché non voglio entrarci, perché è stato dibattuto anche troppo, ma in generale il fatto che da 3 giorni non si parli d'altro nei media? Ma in effetti non è la prima volta che le forze dell'ordine, come da protocollo ormai consolidato, entrano negli asili e nelle scuole a prendere i bambini. Questa è la prima considerazione che va fatta, perché il filmato scoperchia una realtà. Noi avvocati la conoscevamo bene, quindi probabilmente i nostri giudizi non nascono dalla positività del momento e del filmato. In secondo luogo, un altro messaggio devastante è che le sentenze in Italia possono anche non essere rispettate. In effetti erano 3 anni che il bambino doveva andare a vivere col padre, indipendentemente dal merito della causa, perché nessuno conosce le carte processuali, però c'è una sentenza. La sentenza deve essere eseguita, perché in nessun altro paese al mondo, se uno arriva in una piazza, arresta una persona, i poliziotti possono essere addirittura circondati, come succede in alcune città del sud. Sì, accade nei casi di arresti di camorra, ecco, in questo caso. Ma il concetto è lo stesso, si deve eseguire un provvedimento. Siamo in uno stato di diritto, siamo in una democrazia, la sentenza si fa in nome del popolo, va rispettata. Il problema è che per 3 anni si è stati fermi e poi ci si è scatenati con l'anello debole della catena, cioè col bambino trascinandolo per terra, in un'immagine vergognosa. Perché i parenti del bambino non sono stati allontanati, non sono stati arrestati, perché c'è una flagranza di reato, di minacce, violenza, resistenza al pubblico ufficiale? No, tutto è stato fermo, si è consentita la registrazione del video tranquillamente, che ha fatto il giro del mondo, e alla fine si è creato un grandissimo dramma per questo bambino. Allora il problema di fondo qual è? Che abbiamo probabilmente una magistratura un po' timida, delle forze dell'ordine che non sono coordinate, un concetto che eseguire una sentenza tutto sommato sia un fatto opzionale, e si arriva a questi eccessi. Poi sul problema del terreno di rivendicazione e scontro, ci ho scritto un libro. Il problema di fondo è che in Italia la separazione e il divorzio viene vista come un lutto e bisogna farla pagare. I figli non sono solo un bottino di guerra, ma portano con sé soldi, case, assegni di mantenimento, mobili, conti correnti, spese straordinarie. Cioè i figli sono un terreno di rivendicazione e vendetta, ma anche una fonte di reddito in alcune famiglie fondamentale. Per cui sappiamo che l'ago della bilancia su chi deve uscire fuori di casa è la collocazione stabile del figlio. Cioè usciamo dall'ipocrisia che è solo un problema di pezzi di cuore, no? È un problema soprattutto economico. Infatti io dicevo, Gianetto, il pezzo da Tamaro di questa mattina è naturalmente tutto basato sul cuore, le relazioni del cuore diventano azioni legali, ma io direi, ma non si può trattare il problema dimenticando un attimo quella che è millenni di letteratura, di narrativa, di sottoletteratura riguardo a quanto sia l'amore materno e l'amore paterno qualcosa di viscerale e inqualificabile e indefinibile dal diritto? Secondo me non c'entra nulla l'affetto in questo caso. Non discuto che ci siano anche dei legami fortissimi, ma il partito dei padri e delle madri che in questi giorni si è costruito spontaneamente è veramente inquietante. La Mussolini che ieri urlava: i figli devono essere lasciati alla madre. Che è un messaggio orrendo quello della Mussolini, e posso anche dire che per esempio non è stato ancora creato il messaggio del partito dei bambini. Qua bisogna solo, qua si cerca di fare il tifo a seconda se l'esecuzione veniva fatta contro un padre o contro una madre. Con questa deriva non si va da nessuna parte. Quelle immagini avvengono purtroppo anche senza telefonino tutti i giorni. Noi più volte ci siamo lamentati perché non c'è un coordinamento tra la magistratura e la polizia, cioè il magistrato si limita a dire: mi raccomando, andateci piano, questo è il concetto, parlo alla radio quindi la gente deve capire, però poi la polizia ha una vasta gamma di possibilità, sceglie il modo, il tempo, il luogo. Non va bene in alcuni tribunali per i minorenni, invece i giudici sono molto molto attenti a come viene eseguito un provvedimento, perché anche l'esecuzione di un provvedimento è legge, attenzione, non c'è soltanto la sentenza, tra la sentenza e l'esecuzione c'è tutto un mare di passaggi. Non sarebbe necessario in fondo il consenso di entrambi i genitori? Cioè in questo caso entrambi i genitori dovrebbero prendere atto che ormai la sentenza c'è, è inutile buttarsi per terra o fare resistenze. Ma nel caso specifico non stiamo parlando in questo caso c'era un piantonamento della scuola da parte del nonno, della zia. Gravissimo, ma il problema è questo, che in questo caso non si parlava di una procedura di affidamento, la gente non l'ha capito ancora, la mamma aveva subito la decadenza della potestà, che è il provvedimento più grave che un genitore possa subire, ma indipendentemente dalla PAS, dal plagio, da qualsiasi altra patologia, io non sono uno psichiatra, faccio l'avvocato, chi subisce la decadenza della potestà viene praticamente, tra virgolette, cancellato provvisoriamente come genitore, proprio cancellato, cioè tu non hai più poteri, non hai più possibilità di educare e tenere il figlio. Mi meraviglio che per 3 anni questa mamma ha continuato a tenere il figlio. Ripeto, non si può entrare nel metodo della vicenda, può darsi che la mamma sia la migliore madre del mondo, ma leggendo le carte, io faccio l'avvocato, quindi per me l'unica verità è quella della sentenza, bisognava eseguirla da 3 anni. Come mai da 3 anni una mamma che è decaduta, quindi considerata una mamma assolutamente negativa e pericolosa, ha tenuto con sé il figlio, per poi arrivare a trascinare un bambino con l'ausilio del padre? Cosa gravissima, perché il padre ha provveduto, stava lì all'esecuzione del provvedimento, perché i magistrati, io immagino meglio, i poliziotti non hanno detto al padre stia fermo, non tocca a lei, che cosa fa? Prende il bambino per le gambe, cioè è creato un cortocircuito terribile, non poteva il padre partecipare attivamente all'esecuzione. Pur questo, lo sai che nessuno l'ha detto in questi giorni, ho seguito tutti i dibattiti televisivi. Nessuno ha detto questa per cosa. Legge un padre non può andare a eseguire un provvedimento, lo sanno tutti, purtroppo. Poi che cosa come succede? Se fosse un vice poliziotto, lui lo teneva per i piedi, un altro teneva per... Come la mamma non poteva stare lì, il padre non poteva toccare il figlio in quel momento, non lo poteva trascinare. Quindi, per quanto io capisca perfettamente lo stato d'animo, ho sentito l'intervista, l'ho visto una persona particolarmente moderata. È un tuo collega, tra l'altro è un avvocato anche lui. Sì, ma questo conta poco. Insomma, devo dire però che in quell'occasione io non sono affatto d'accordo col suo modo di fare. Fermiamoci un secondo, Gianetto, c'è Luca. Luca, buongiorno. Luca. Buongiorno Nicoletti, sono un po' senza voce, chiedo scusa. Niente, io ho 3 figli. E il primo, il maggiore, è quello che ha subito di più le conseguenze delle litigate tra me e mia moglie, che sono state veramente devastanti. Mi rendo conto che a volte da genitori si è convinti di aver ragione e quindi si porta avanti a spada tratta la propria teoria, questa volta anche dopo il matrimonio, quelli io ho ragione, e le fanno le spese i figli. E a un certo punto mi sono reso conto che si stava tirando un po' troppo la corda, ho detto vabbè basta, allora ho rinunciato, ho detto a mia moglie fai una proposta ragionevole, perché 3 figli poi da mantenere, lei fortunatamente lavora, 3 figli da mantenere sono tanti, però in qualche modo sopravviverò, e allora ci siamo separati, e da lì la situazione sembra almeno tra noi due è migliorata molto, quindi per noi il matrimonio non è stato la separazione non è stata un lutto, ma semmai un ricominciamo a vedere di gestire le cose in maniera diversa, e speriamo che vadano bene. I danni ormai credo che siano stati fatti, adesso Matteo si chiama, il primogenito, ha dei problemi di comportamento molto seri, e probabilmente i colpevoli di questi suoi problemi siamo io e mia moglie. E ne siete anche consapevoli, Luca, vedo. Ferruccio, certo, buongiorno. Sì, Ferruccio. Grazie Luca. Ferruccio. Buongiorno Nicoletti. Io come Luca faccio parte di quella schiera di genitori separati. Io volevo porre però l'accento su un altro aspetto, nel senso che io mi sono separato 10 anni fa, una separazione molto brutta e molto dolorosa, a tratti ma anche violenta, ma nelle parole per intenderci, è sempre assolutamente solo nelle parole. Sono finito proprio nel vero senso della parola, nelle mani di un giudice che trattava materie di lavoro, quindi incompetente, sul Tribunale di Milano. Sì, io non è che voglio fare le difese, ho paura che lei dica che il giudice è incompetente, non ne può. No, sente, non lo so, lo sa perché lo dico. Sì, ma vorrei entrare. Sì, ma va benissimo. Ma ok, Ferruccio, quello che volevo capire però è un altro punto di vista. Vorrei fare un passo avanti, prima ancora di finire nei tribunali e avendo i figli come nel giudizio salomonico a metà, pronti a essere divisi a metà fra il desiderio del padre o della madre, perché si arriva a questo? Perché improvvisamente quando ci si lascia o quando si attiva tutta la catena dell'odio verso un'altra persona, giustificabile, non voglio dire che bisogna amarsi quando non ci si ama più. Perché si pensa che i figli diventino l'arma più letale, più potente per nuocere all'altra persona? Semplicemente perché è l'unico modo per monetizzare la fine di un rapporto, cioè alla fine è quello. Duole dirlo, è triste dirlo, però alla fine diventa uno strumento per monetizzare la fine di un rapporto, e sulla bilancia io mi sono trovato nella condizione nella quale costava vedere i bambini, costava un giorno in più. Quindi è quello che ha detto Gianettore Gassani, è sacrosanto, non tiriamo fuori il cuore, il legame di sangue, la mamma e il papà, tiriamo fuori che quando ci si separa ci si deve far del male, ci si deve far del male, si deve lucrare il più possibile sulla separazione, e i figli è la maniera migliore, l'arma di ricatto di migliore per ottenere più soldi, più potere e più denaro e dare un maggior dolore alla parte offesa, alla parte all'altra parte, alla parte che si vuole offendere. 800240024, abbiamo ripreso il caso mediatico del bambino padovano portato via dalla scuola per un provvedimento del giudice. Cerchiamo di risalire a monte di questi episodi e capire quali sono le ragioni per cui c'è una tal situazione normativa, di tradizione, stato generale nel nostro paese, per cui è sempre gioco forza, nella maggior parte dei casi, i bambini diventano lo strumento di ricatto, lo strumento di vessazione dei reciproci odi dei genitori che si sono separati. Mi scrive un ascoltatore sul profilo Melog Radio 24 di Facebook: nessuno che sta alla parte del bambino, questo bambino deve venire ascoltato, ha già una sua volontà, questo bambino deve essere liberato da questo pseudo carcere. Ma come siamo messi? Che leggi sono queste? I bambini sono il nostro futuro. Invece, secondo me, uno dei pezzi più saggi letti in questi giorni su questa vicenda l'ho letto su un sito di informazioni www.caffenews.it. L'ha scritto Martina Castigliani, che ho al telefono. Il titolo è "I bambini non sempre hanno ragione". Martina, buongiorno. Buongiorno. Tu sei figlia di un assistente sociale, quindi hai avuto una particolare attitudine familiare nel scrivere questo pezzo, che è totalmente controcorrente rispetto a quello che hanno detto tutti, più o meno. Sì, ecco, diciamo che io sono una giovane giornalista e quello non è certo un pezzo giornalistico, diciamo. Caffè News è un posto dove ci si sfoga un po' e si cerca di trovare delle opinioni e discutere. Io l'ho trovato uno dei pezzi più intelligenti scritti, guarda. Ti ringrazio molto. Io sono molto più di quello che scrive oggi la Tamaro sul Corriere della Sera, in assoluto. È stato molto di pancia, quindi è stato anche molto sofferto di scriverlo in quel modo, perché capisco che ci sono cose anche difficili da spiegare. Abbiamo avuto miliardi di visite, e questo forse vuol dire anche che c'è stata una parte che non è, di cui nessuno ha mai parlato. Io semplicemente, da figlia di assistente sociale, ogni volta che vengono fuori questi casi, perché periodicamente in Italia vengono fuori casi di questo genere, soffro leggendo gli attacchi spietati contro operatori, servizi, bambini devono essere ascoltati, perché da semplice spettatrice di chi fa questo lavoro posso garantire che i bambini vengono ascoltati, che dietro ogni provvedimento ci sono non solo procedure burocratiche, decisioni, eccetera, ma ci sono delle persone, degli esseri umani che per mesi, anni, se non anni, si dice il bambino in questione, erano anni che si lavorava sulla faccenda. E quindi anche questa cosa, la paura del... Io quando dico sono la figlia di assistente sociale è quasi una... non si può dire, perché sono i rubabambini italiani, e questo mi fa stare molto male, perché credo ci sia una... Al di là della questione, quello ha fatto molto male a chi lavora su queste questioni, perché io ho sentito mia madre, io lavoravo, l'ho sentita dopo qualche giorno e mi ha detto: noi nei servizi siamo disperati, perché lavoriamo da mesi con famiglie, adesso come li facciamo a spiegargli che quello che vedono in televisione è diverso da quello che sta succedendo a loro? Come facciamo a spiegargli che non siamo il diavolo e stiamo lavorando lentamente su delle decisioni? Quindi diciamo la pubblicazione, la moltiplicazione di questo video, e vorrei precisare, non sono certo io la persona occupandomi di giornalismo spontaneo in rete da qualche decennio, prima ancora che gli altri sapessero di cosa si trattasse, ecco, non è servito a denunciare un caso di malversazione o di inadempienza, di cui stiamo parlando, è senz'altro giusto, ma è servito soprattutto a sputtanare, a rendere vano il discorso di tutti quelli che stanno lavorando su casi simili da oggi in poi. Io credo di sì, credo che se chi riceve questo video vede in questo video una situazione molto grave, deve in primo luogo rivolgersi ad altre sedi. Non credo che buttarlo nella pubblica piazza sia stato l'azione più giusta, anche perché questo bambino adesso tutti sa, se prima era il bambino traumatizzato portato via da scuola, adesso è il bambino di cui parlano tutti, ovunque, e quindi credo che sia stata un'azione molto, molto difficile, che ha creato molte complicazioni concrete per chi fa questo lavoro. E sì, penso che ci sia, purtroppo è incredibile la moltiplicazione anche di opinioni. Ci sono dei casi in cui noi non possiamo dire niente, non sappiamo niente di cosa c'è stato dietro. Potevano trovare un altro modo, gridano tutti, ma quale altro modo? Cosa ne sappiamo noi di tutti gli altri modi che hanno usato prima? Insomma, grazie, grazie Martina. Selene Pascasi, buongiorno. Buongiorno. Selene Pascasi è un avvocato, è un giornalista, è socio fondatore della Camera Minorile Distrettuale d'Abruzzo e anche presidente territoriale dell'Associazione dei Matrimonialisti Italiani, di cui naturalmente il presidente Gassani. La chiamiamo perché è un giovane avvocato che ha trattato casi del genere, ma è anche una giornalista, si occupa di varie questioni legate al diritto. Cosa ne dice l'avvocato rispetto proprio alla divulgazione della figura del minore? A cosa è servito, alla luce di questi 3 giorni di esplosione mediatica, aver bollato questo bambino come il bambino rapito per eccellenza? Saluto tutti, saluto anche il presidente Gassani. Ovviamente nella mia doppia veste di avvocato e giornalista la questione è ancora più delicata da toccare, nel senso che il problema della privacy del minore sappiamo tutti che è una tematica molto molto molto delicata. In questo caso sappiamo anche che c'è un'ordinanza alla Corte d'Appello, per carità, non discutibile, comunque non abbiamo le carte per farlo e non sappiamo. Ma ecco, di fronte ad un'ordinanza così dura, che comunque stabilisce che il provvedimento deve essere utilizzato, deve essere attuato con tutti i mezzi possibili, perché come diceva il Presidente ovviamente è legge, la legge va rispettata. Ecco che ci si chiede, ma è una tragedia annunciata? Cioè, vista la delicatezza della questione... Beh, la frase della zia fu chiara. Una tragedia, la frase della zia che dice: vi vedrete in televisione, bastardi. Ecco, appunto dico, cioè, sembrerebbe una tragedia annunciata, ma non è sempre così. Cioè, non è vero. È vero che da parte c'è un provvedimento e da una parte c'è una coppia che si fa la guerra, ma comunque al centro c'è un bambino che ne paga le conseguenze, ovvio. Ma prima di tutto ci sono padre e madre incapaci di proteggere il figlio in una guerra del tutto personalissima. È un film, è diventato un film in cui ogni protagonista ha le sue ragioni. D'accordo, ha ragione il poliziotto piuttosto che il padre, ma il risultato qual è? Che un bambino di 10 anni, alla fine, come accade a tanti altri minori, si bada in qualsiasi luogo, altre parti del mondo, viene portato via a forza. Ma non è portato via a forza, cioè lo snodo principale in questo contesto è che c'è qualcosa che va oltre, c'è qualcosa che va al di fuori e viene prima anche di questa tragedia annunciata. È quello c'è un video amatoriale, allora bisogna chiedersi: ma non è forse questo video amatoriale, tra l'altro filmato e diffuso dai familiari del bambino, quindi non dal pubblico, da gente che stava lì curiosando, che ha contribuito veramente a trasformare l'esecuzione, criticabile o meno, di un provvedimento a tutela del minore in un circo mediatico di cui il bambino è protagonista? E di qui, nel video, come diceva lei Nicoletti, si sentono chiarissime le parole: andate in televisione, così è stato, chi l'ha visto, YouTube, ma tutto questo è giusto? Quindi io ritengo, anche da giornalista, che qui non si tratta solo di tutelare il minore dalle intrusioni mediatiche, perché siamo abituati, purtroppo, dico, sottolineo purtroppo, ad assistere a mercanteggi in cui si mettono sul piatto della bilancia l'esigenza di cronaca, di spettacolo, salottini televisivi e la tutela del minore, che a mio parere comunque non può essere contrattato. Diciamo che portare il caso a una pubblica attenzione molte volte può aiutare, contribuire, influenzare, siamo d'accordo, ma qui c'è stata una precisa volontà a priori, meditata, di dire: adesso vi filmiamo e andrete a finire in televisione. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, anche a tutti i suoi ospiti. Grazie per avermi dato la possibilità di parlare. Io volevo portare la mia testimonianza da papà separato e divorziato nel lontano 89, quando avevo una bambina di 3 anni che non mi è mai stato, cioè non ho mai avuto la possibilità di vedere mia figlia, anche se c'era una sentenza del tribunale che poteva andare a prendere mia figlia dalle 8 di mattina alle 8 di sera, il lunedì, il mercoledì e la domenica. E perché non poteva se c'era la sentenza? Perché la mamma non me lo faceva vedere. Sono andato 6 volte con l'ufficiale giudiziario sotto casa, in presenza anche dell'avvocato. Si arrivava lì davanti un sacco di parole, sia a me che all'avvocato, dietro fronte. L'ufficiale giudiziario aveva il dovere di prendere la bambina e darmela. Scriveva sugli atti, rimetto gli atti al pretore perché non mi prendo la responsabilità. Non c'è stato un modo di vedere mia figlia. In più la dovevo mantenere. Quindi come dice l'avvocato Gassani, ha detto prima, in Italia le sentenze comunque sono qualcosa che è scritto sull'acqua, anche se c'è una sentenza, come vede, esattamente è un ripetersi della questione di cui stiamo parlando. C'era una sentenza, lei poteva vedere sua figlia alcuni giorni a settimana, andava con tutto il personale necessario perché potesse impugnare e avere questo diritto, ma in realtà bastava che dicesse la madre no, non la vede, e quindi la figlia lei non la vedeva. Leggo su un SMS che scrive un ascoltatore che in realtà in questi casi di prelievi il magistrato dovrebbe presiedere di persona al prelievo. Rosandra, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Rosandra Ferrario, sono una psicologa giuridico forense, nonché perito del Tribunale per i minorenni di Milano e dello Tribunale ordinario. Grazie di averci chiamato. Sì, figura, la prima volta in vita mia che parlo ad una radio, ma credo che sia necessarissimo. Allora, io ho un'esperienza decennale, se non quindicennale, di allontanamenti dei minori dalla dimora, e questi vengono sempre svolti in ambito scolastico, perché la scuola è il luogo di decantazione e del trauma. Non mi è mai successo che un minore venisse portato fuori da un'aula scolastica piangente, ma anzi devo dire che ringrazia gli operatori. In questo caso, scusi Rosandra, c'era il picchetto della zia e del nonno che alimentavano. Il picchetto è a fronte di un decreto di decadimento potestà genitoriale di una madre che blindava la casa, blindava la scuola, quindi un picchetto gravissimo. Io posso veramente portarvi un'esperienza di decine e decine di minori. Vengono via dalla scuola dicendo addirittura grazie. Allora, io voglio spezzare davvero una lancia a favore di tutti gli operatori che lavorano nella tutela minore. Su quello che ha detto l'avvocato Gassani, che il padre non doveva mettere mano al prelievo? Assolutamente, il padre forse in veste di avvocato e con un cuore di padre ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Questo spetta agli operatori specializzati, quindi la psicologa che ha seguito il caso, che ha seguito il minore e gli operatori giudiziari che sono specialisti in formazione e tutela minore. Qui c'è un decreto. Quindi scusi Rosanda, la famiglia doveva starne fuori, sia... Diciamo, la famiglia deve starne fuori. Le parenti della madre che stanno lì a fare il picchetto, sia il padre che è andato di persona, non dovevano esserci. Assolutamente, ma qui c'è un decreto, quindi c'è una CTU. Il bambino è stato ascoltato per anni, visto che da 2 anni la madre è decaduta dalla potestà genitoriale. Il bambino viene seguito passo passo in CTU, dove un giudice pone un quesito chiaro: qual è l'affido e il migliore collocamento di questo minore. Il minore parla non solo attraverso le parole, il minore parla attraverso i disegni, la sua modalità di comportamento nel relazionale. Quando un bambino, così ho letto sui giornali, è bravissimo a scuola, non fa altro che esaudire le aspettative di una madre. È vero che la PAS non è un disturbo, perché non è contemplata nel DSM-4-TR, cioè il manuale nostro di specializzazione di disturbi mentali, ma esistono le madri malevole. Quindi lei dà una lettura in chiave tecnica, dimostrandoci che in realtà Non è che poi c'è questo pressapochismo e che di fronte alle parole emotive in realtà c'è dietro un metodo che è stato rispettato. Silvana De Mari, chiamiamo Silvana De Mari perché è una scrittrice di genere fantasy, una saggista e anche psicoterapeuta. Ha scritto da poco, in ottobre, anzi in uscita, La realtà dell'orco per le edizioni Lindau. Silvana, tu come hai visto questa situazione, visto che ti occupi di infanzia e di letteratura dell'infanzia, e qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista è un punto di vista neurobiologico. Il cervello umano ha tre livelli, rettiliano, limbico, corticale. La maternità è sul cervello rettiliano, è la più antica emozione che esista. A noi l'umanità non si è estinta, siamo ancora vivi, perché madri, alcune benevole, alcune, come è stato detto, malevole, madri cattive ci hanno messo al mondo e si sono rotte l'anima a tirarci su e allattarci, darci e cambiarci il pannolino invece che buttarci nella spazzatura. Questo è un ricatto che però abbiamo subito anche troppo, Silvana. Mi dispiace, ma la maternità è sul cervello femminile, quello che dicevo l'altra volta, il branco di isteriche galline del movimento di liberazione femminile l'hanno vietato. Per noi la sessualità non fine la maternità. E come la vedi su questa cosa, visto che siamo in chiusura, su questo caso specifico? Dico che un rapporto tra madre e figlio, prima di essere spezzato, bisogna pensarci 100 volte, ha maggior ragione se la madre è disfunzionale, ha maggior ragione se ha creato un legame esclusivo, al punto tale da mettersi come picchetti, prima di andarlo a rompere, fermatevi, pensateci, perché... Ci hanno pensato delle ore, ci hanno pensato le ore in cui sono state nella presenza del bambino, attraverso disegni di bambini, si possono dedurre molte cose, ha maggior ragione se il legame è disfunzionale, non va spezzato brutalmente. Si va a scuola perché ci sia la decantazione del trauma. Il trauma c'è sempre. Quindi il tuo punto di vista, Silvana, mi sembra chiaro. La madre comunque deve essere lasciata con la madre, anche se è una cattiva madre. Perché la madre è un legame così profondo e così viscerale che prima di spezzarlo bisogna pensarci bene. È un po' la sintesi di quello che strillava ieri Alessandra Mussolini nei salotti, detto naturalmente con motivazioni più articolate. Gianettore Gassani, la conclusione rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Ma io penso che insomma è uscito di tutto, di più. Chiaramente quest'ultimo intervento mi lascia un po' basito, onestamente. Il partito delle mamme è anacronistico, bisogna parlare delle però l'abbiamo voluto rappresentare, visto che c'è anche genitori, quello. Basta con queste storie, noi viviamo nei tribunali tutti i giorni, ci sono le mamme meravigliose, delle mamme assolutamente malevole, ci sono dei padri meravigliosi e dei padri che andrebbero allontanati. I figli vengono prima di tutto, quindi non bisogna fare discorsi ideologici. Rispetto a quello che ha detto il perito del tribunale, sei d'accordo? Ma assolutamente sì, sono d'accordo con quanto dice Serena Pascasi, che oltre ad essere un ottimo avvocato è anche un grande giornalista, ma credo che comunque ha detto bene la psicologa del tribunale, i genitori non devono partecipare attivamente a quelle operazioni così tremende, ma comunque quel picchetto della famiglia materna, onestamente, sarà sicuramente valutato in maniera molto drastica dalla Procura Repubblica di Venezia, perché quello che hanno fatto, secondo me, non è di una gravità eccezionale. Quindi ci sono altre ipotesi di reato di cui non si è parlato in questi giorni? Saranno sicuramente processati, inviati a giudizio e riprocessati per quello che hanno fatto, perché ci sono vari reati in tutto questo. A parte poi che la divulgazione di quel filmato è un altro regalo della zia che ha fatto al nipote, perché probabilmente se il nipote oggi si trova su tutte le pagine dei giornali non è solo colpa della polizia o dei magistrati, ma anche di una zia che ha pensato bene di filmare tutto e mettere su YouTube. Quindi questo è l'ennesimo regalo probabilmente di una famiglia che non ha usato il raziocinio per salvare questo paese. Cambierà qualcosa secondo te, perlomeno nella percezione generale, se non nelle prassi, dopo questo episodio? Penso di sì, in tutto questo male qualcosa di buono ci sarà, cioè che la gente comincia a capire che le sentenze non sono un consiglio ma sono un ordine in nome del popolo che va rispettato. È così difficile pensare che una sentenza sia un ordine? Hai sentito anche l'ascoltatore prima che diceva per 3 anni, nonostante che andasse lui tutti i giorni stabiliti a vedere la figlia, bastava che dicesse l'altro genitore non la puoi vedere e tornava a casa. Ma perché siamo italiani, io una volta dovevo eseguire un provvedimento in Galles per un padre italiano che doveva recuperare i bambini sottratti a livello internazionale, al secondo tentativo la polizia ha arrestato la madre davanti a me le ha messo le manette. E allora questo è il problema, che siamo italiani, siamo un po' un paese di Pulcinella da questo punto di vista, anche se siamo la culla del diritto. In Francia, in Inghilterra, in Spagna, anche la Spagna, in Germania, Olanda, per queste cose si va in galera, ma di corsa. Quindi forse in Italia, quando cominceremo a rispettare la magistratura, le sentenze, le forze dell'ordine, forse saremo un paese d'Europa veramente. Grazie Gianettore Gassani, grazie a tutti gli ospiti, grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, a domani. Thank you.